Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci qui, grazie a chi è già in ascolto. Siamo un pochino in ritardo, vi siete accorti, anche perché era necessario un aggiornamento del GR, soprattutto sulla Libia, su quello che sta succedendo. Lo sapete sempre, questo è il mio appuntamento con voi il sabato per raccontarci le notizie della settimana, soprattutto per sentire quali sono le vostre libere opinioni sui fatti, ritornare così con calma anche su cose molto magari drammatiche, insomma, sconvolgenti per un po' tutto il mondo a livello internazionale, o possono essere anche questioni strettamente legate al nostro paese. Qual è la vostra notizia della settimana? Su cosa volete tornare a esprimere la vostra opinione? Il numero verde, ve lo dico da subito, 800 24 00 24. Insomma, difatti, credo di non doverne suggerire, purtroppo, per molti versi. Avete sentito appunto dagli aggiornamenti del giornale radio la questione della Libia. Tra poco ci sarà un vertice a Parigi per capire, insomma, esattamente come agire. La questione è estremamente complessa, estremamente delicata. Giusto, non è giusto intervenire? Ci saranno dei raid nelle prossime ore. Avete sentito anche sempre dalle notizie del giornale radio che, per esempio, Radio Padania ha fatto 2 ore stamattina sulla questione e gli ascoltatori sembravano tutti contrari a questo intervento. E Matteo Salvini, il direttore, ha spiegato un po' le ragioni, sulle quali poi magari ritorniamo. Secondo voi, che cosa bisogna fare? Come bisogna intervenire? E bisogna intervenire o no nei confronti della Libia? La situazione è molto critica, è in corso praticamente da giorni, un po', diciamolo pure, usiamo il termine genocidio. Che cosa bisogna fare? Poi c'è ovviamente la grandissima catastrofe del Giappone, anche lì non solo il lutto, il dolore per le vittime, ma anche una riflessione che è rimbalzata, necessaria un po' in tutti i paesi occidentali e anche molto in Italia, diciamo, con aspetti un po' controversi, su che cosa fare alla luce dell'incubo nucleare che incombe sul Giappone. Non solo è giusto ritornare al nucleare, visto che il nostro è uno dei pochissimi paesi occidentali che per ora afferma tutte le centrali ma vuole ritornare a occuparsi di programma nucleare. Che cosa ne pensate anche di questo? Quindi Libia da una parte, Giappone e questione nucleare dall'altra, l'unità d'Italia, 17 marzo, dopo tante polemiche, tira e molla, cioè da chi si dissocia, che invece ci sono stati questi festeggiamenti, molti sono rimasti commossi, altri si sono defilati. Come avete vissuto queste celebrazioni, questo anniversario? Vi sentite italiane e italiani? Insomma, tantissime sono le cose. Poi varie altre sono le notizie, appunto, sempre anche di politica, le quote rosa, Parmalat, tirate voi quello che volete, 800 24 0024, sono talmente tante le cose che mi, diciamo, arrotolo su me stessa. E poi invece, a proposito del nostro rito sempre del sabato, cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Beh, intanto non ci sono più i siti di una volta, o meglio, il New York Times, prestigiosissimo quotidiano americano, ha deciso che dal 28 marzo proporrà un abbonamento mensile per poter accedere al proprio sito, tra i 15 e i 35 dollari, a seconda poi, insomma, di quanto uno vuole frequentarlo, saccheggiarlo, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere questo un primo passo dopo la libertà totale nei confronti delle fonti di informazione su internet. Quindi si potrebbe cominciare, insomma, ad avere un precedente, quindi a dover pagare anche per informarsi su internet. Questo, quindi, e dall'altra parte anche la luna non è più quella di una volta, ma per fortuna soltanto stasera. Quindi chi volesse godersi uno spettacolo da non perdere, ricordatevi che c'è questa luna gigante che non si ripeteva da 19 anni, perché raggiunge un punto, la luna vicinissimo alla Terra, il più vicino possibile alla Terra. Sapete che è il nostro satellite, e si vedrà questa luna, tra l'altro è piena stasera, quindi sarà veramente gigantesca. Quindi sappiatemi dire, cercate di non ululare possibilmente. 800 24 0024, bando alle ciance, visto che siamo anche un pochino in ritardo, direi di presentare subito, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Massimo Nava. Buongiorno. Buongiorno. Massimo Nava è editorialista, grande editorialista del Corriere della Sera da Parigi, quindi sulle varie notizie di questa settimana ci darà anche un suo punto di vista parigino, insomma, dalla sua postazione francese, che avrà sicuramente una visuale, un'accezione un po' particolare su tanti fatti, compreso e soprattutto anche la questione della Libia, ma anche il nucleare, anche se si vuole il quote rosa. Tra l'altro, Massimo, prima di citare il tuo ultimo libro, che è molto d'attualità relativamente all'Unità d'Italia, ti volevo dire: vuoi pregare i tuoi amici francesi di cercare di tenere giù le mani dalle aziende italiane, visto che sei da quelle parti? Questa è una faccenda estremamente complessa e, come sempre, i matrimoni transalpini sono sempre matrimoni di interesse, e in più di un'occasione chi ha fatto la parte più grossa è sempre stata la Francia. D'altra parte, il sistema paese francese, il sistema delle industrie, delle banche, e per venire anche all'argomento più recente che avete evocato, il nucleare, è un sistema che ha una massa critica e un gioco di squadra indubbiamente più forte e più importante del nostro. Pensiamo anche proprio, tu citavi Parmalat, ma anche tutto il settore agroalimentare. Infatti, quindi, la grande distribuzione. La grande distribuzione, che già da tempo in Italia è francese, eccetera, in buona parte. Mentre invece sono sempre stati estremamente attenti a tenerci fuori dalla porta in altre occasioni, per esempio un paio d'anni fa, quando ci fu la questione EDF, Suez, Gas de France, prima ancora ai tempi degli Agnelli con le acque minerali, e poi insomma anche come mercato e distribuzione. L'Italia piace molto per la moda, ma tanti si sono presi bulgari ultimamente, caso, no? Se è possibile, i marchi se li prendono loro. Infatti, bulgari, e poi dicevo, a questo proposito, diciamo nel mirino in questo momento è la Parmalat, no? Mi viene in mente la canzone Pippi Calzelunghe: tutto il nostro formaggio si vuol mangiare, diciamo, la Francia, perché ha già Galbani, Invernizzi, adesso si vuol prendere. Ma io, vivendo in Francia, preferisco sempre pensare a Paolo Conte, a Bartali, bellissimo. Anche se mi perdonate la volgarità, ai francesi che si incazzano. Sì. L'ho risentita proprio ieri la canzone, divertentissima. Lasciamoli allora incavolare, diciamo, i francesi. Intanto abbiamo la viabilità tra pochi istanti. L'ultimo libro, vi ricordo, di Massimo Nava si intitola Il Garibaldino che fece il Corriere della Sera, vita e avventure di Eugenio Torelli Violier. Ha recuperato Massimo questo personaggio che era un po' tenuto in ombra, invece ha avuto un ruolo importantissimo anche proprio nella creazione del Corriere della Sera. C'è la viabilità, è vero, Paolo Corleone, mi confermi? E vi ricordo, tra l'altro, che c'è la pagina dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni su Facebook. Diversi ascoltatori si sono espressi con le loro opinioni su questioni centrali anche questa settimana, dal nucleare alla Libia. Voglio sentire anche le vostre opinioni in diretta. 800 24 00 24. Tra poco, tra l'altro, il primo dovrebbe essere Nicola da Milano. Non ci sono più le mezze stagioni. E riprendiamo dunque il discorso. 800 24 00 24 per le vostre libere opinioni sui fatti della settimana. Già abbiamo due ascoltatori che uniscono l'Italia a proposito delle celebrazioni di questi giorni: Nicola da Milano e Crescenzo da Napoli. Intanto però Massimo Nava, che è il mio opinionista estemporaneo di oggi, editorialista del Corriere della Sera da Parigi, dici un po' sinteticamente il contenuto del tuo libro, Il Garibaldino che fece il Corriere della Sera, no? Diciamo, un personaggio che... È la storia di un giovane napoletano che ha una madre francese e che durante la spedizione dei Mille, dove si era arruolato come volontario, conosce niente meno che il grande Alessandro Dumas. Quindi diciamo che torniamo ancora in qualche modo alla Francia e a Parigi. E Dumas segue Garibaldi come un inviato speciale dell'epoca, oggi si direbbe un giornalista embedded. E grazie a Garibaldi dirige un giornale a Napoli, e il giovane Eugenio Torelli Violier, bilingue, napolitano di madre francese, gli fa da interprete, segretario, traduttore, e da questa amicizia, da questo rapporto nasce una specie di sodalizio che io racconto in questa, diciamo, biografia romanzata, e che porta i due insieme a Parigi, e da lì comincia una carriera di giornalista corrispondente fino al sogno di essere lui stesso proprietario e direttore di giornale. I lettori italiani, in modo particolare quelli del Corriere, quando pensano alle origini del Corriere nell'Ottocento, pensano in generale ad Albertini, figura mitica del giornalismo italiano, ma dimenticano appunto questa figura che ebbe invece il merito non solo di dirigere il giornale per più di 20 anni, ma di fondarlo, di gettarne le basi e di farne un foglio indipendente che rappresentava, dopo la presa di Roma, davvero l'Italia, l'Italia unitaria e il sogno di uno Stato moderno e unitario. E ricordarlo, per fortuna, appunto, Massimo Nava, questo personaggio. Andiamo alle vostre telefonate, intanto, mentre vedo dalle agenzie, questo flash d'agenzia che parla di una nave marina per migranti di nuovo sbarcata a Lampedusa. Sapete che ormai l'isola è abbastanza al collasso, diciamo pure, anche i centri per la permanenza temporanea sono moltissime ormai le persone, e naturalmente questi rivolgimenti che ci sono stati nel Nord Africa accentuano molto quello che sta succedendo, quindi un esodo verso il nostro paese. Nicola da Milano. Pronto? Nicola, sono qua. Io, salve. Ciao. Ciao. Se io sono intervenuto altre volte su altri argomenti, questa volta però ritengo doveroso intervenire sul discorso della Libia. Innanzitutto sono contrario comunque a un attacco sulla Libia, anche perché, diciamolo francamente, quando Gheddafi faceva comodo alle superpotenze è sempre stato protetto, è sempre stato sostenuto, il petrolio faceva comodo, eccetera. Adesso improvvisamente ci si sveglia, no? E si dice bisogna attaccare Gheddafi. Nicola, scusami, sì. Allora per essere subito, andare al nocciolo della questione, tu sei contrario perché dici è incoerente averlo appoggiato e aver fatto feste, cose, piuttosto ridondanti. Ma come è stato incoerente appoggiare tante dittature? No, aspetta, scusa Nicola, volevo formulare la domanda, quindi dici sei contrario perché prima si è avuto un atteggiamento, adesso se ne ha un altro per una questione di coerenza, o perché temi che possa degenerare la questione? Scusa, la voce che sale e scende. Sì, c'è sempre stata comunque un'incoerenza e chiamiamo una politica di comodo nei confronti di Gheddafi, ma poi soprattutto la cosa che mi preoccupa è proprio che potrebbe scatenarsi veramente poi un terrorismo europeo grave, cioè bisogna pensare anche a questo, cioè probabilmente non si pensa al fatto che la Libia potrebbe veramente poi scatenare un terrorismo islamico integralista, integralista, e quindi mettere a pericolo praticamente la vita di tutti noi, siamo sul metro, sui mezzi. Grazie mille Nicola. Invece andiamo a Napoli, più in giù verso la parte sud dell'Italia. Crescenzo. Salve, buonasera. Buonasera a te, ormai a Napoli è già sera. Ricordati della luna stasera, no. Crescenzo. Ah no, vabbè, io dopo mezzanotte, dopo mezzogiorno dico buonasera. Non so, dalla Toscana in giù più o meno è così, ogni tanto facciamo un po' questo siparietto. Crescenzo, quindi il tuo pensiero invece qual è, su quale notizia soprattutto? No, chiamavo, non sono molto d'accordo con l'ascoltatore che mi ha preceduto. Con Nicola. Diciamo che simile volevo essere d'accordo, ma non è così, perché però non è neanche giusto che deve fare guerra su delle persone che non devono avere diritti civili. Concorda? Stai parlando della Libia, quindi che cosa bisogna fare secondo te? Eh no, quello che sta facendo la Francia e il resto del mondo per me fanno bene. Cioè, giusto anche intervenire. Sì, è perché stanno a morire persone là, chi ne versa il sangue sono sempre i poveri che non c'entrano nulla in un certo senso. Crescenzo... Poi per quanto riguarda... Sì. Mi dica. No, dica tu, prego. No, per il no nucleare non sono d'accordo là. Non sei d'accordo per il nucleare? Lo vuoi o non lo vuoi il nucleare? No. Non lo vuoi, no, è stato proprio categorico. Grazie Crescenzo. E adesso prima di sentire un po' il parere, anche tra l'altro dal punto di vista della Francia, sulla Libia, sull'interventismo o meno, tra poco con Massimo Nava, però sapete che questo è l'unico programma a livello internazionale che ha anche un collegamento con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. E che cosa tocca vedere quassù da Marte ogni settimana, cari bipedi, col telescopio puntato sulla sfera terrestre? Cose che voi umani, eccetera, eccetera, lo sapete già. Insomma, il globo terracqueo trema, le persone diventano purtroppo come tante formichine, e l'asse della Terra si sposta, e si spostano però incrollabili certezze umane, anche vero. Chi aveva detto che le scorie radioattive se le voleva portare a nanna al posto dello sacchiotto, adesso forse ha bisogno di una pausa di riflessione, come succede nelle storie d'amore così un po' contrastate. Tutto uno spostamento generale, insomma, anche se fisiologicamente c'è già chi è spostato di suo, naturalmente. Per fortuna però è primavera e tornano le margherite, così che la comunità internazionale ha potuto copiosamente sfogliarle in questi giorni per decidere cosa fare con la Libia. Interveniamo, non interveniamo, fermiamo il genocidio, non lo fermiamo, ma forse disturbiamo, allora che facciamo? Insomma, sono ormai lontani gli epici tempi del virile decisionismo che privò Saddam delle micidiali armi di distruzione di massa, che anche se non ce l'aveva è sempre meglio prevenire che rimanere senza petrolio. Del resto non ci sono più le mezze stagioni e, come quasi ogni essere umano sa, le cose col tempo cambiano. Nel frattempo la situazione generale è molto stressante, tanto che oltre agli stress test che si continuano a fare sulle banche, ora si fanno anche gli stress test sulle centrali nucleari, insomma tutto uno stress, diciamolo. E intanto c'è gente che fugge dal proprio paese per terremoti, fame o guerra, e gente che invece si dissocia sdegnosamente dalla propria patria, fuggendo o nascondendosi quando suona l'inno o quando bisogna festeggiarne il compleanno, restando però ostinatamente nella patria che disconosce. Allora qui da Marte sorge un dubbio: ma chi è il vero clandestino? Quello che si rifugia in un'altra patria o quello che nella propria si defila nei momenti solenni facendo finta di non conoscerla? Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè! L'Italia derubata e colpita al cuore! Viva l'Italia! L'Italia che non muore! Torniamo con i piedi per terra, occupiamoci delle cose molto terrene con Massimo Nava. Massimo, quindi avevi sentito intanto due opinioni dei tanti ascoltatori che stanno chiamando al telefono bollente di Luca Rinaldi, e la Francia mi sembra che sia stata in primissimo piano per l'intervento, no, già da diversi giorni. Ma già intanto, secondo me bisognerebbe notare una cosa, che proprio la Francia si era ardentemente battuta contro l'intervento in Iraq contro Saddam Hussein. Certo, bene ricordarlo. Un po' il riferimento del, diciamo, del pacifismo internazionale. Chi c'era in Francia allora? Scusa Massimo, chi c'era come primo ministro, come presidente, scusami, era socialista? Presidente Chirac, ministro degli esteri in quel momento, il famoso Dominique de Villepin, che poi è caduto nello scandalo all'ONU contro l'intervento. Sì. E devo aggiungere personalmente che il Corriere della Sera prese posizione, io stesso scrissi, ero inviato a Baghdad in quel momento contro la guerra, e precedentemente avevo suscitato anche molte perplessità sull'intervento in Kosovo contro Milosevic. Quindi diciamo che chiaramente quando si va a scomodare l'etica della guerra, quindi la guerra giusta, la guerra umanitaria, la guerra d'invasione, la guerra sempre contro o sempre giusta, chiaramente ci si apre immediatamente un ginepraio di osservazioni e di controindicazioni. Credo che però in questo caso vada considerato il concetto anche di intervento utile, non solo a protezione delle popolazioni libiche sotto il giogo di Gheddafi, ma soprattutto per quello che Gheddafi e la Libia in questo, diciamo, disordine dittatoriale potrebbe provocare nei paesi vicini e più in generale in tutto il Maghreb, e quindi con il principale rischio è anche quello di vedere arretrare o rendere reversibile quella rivoluzione democratica che stava avanzando in tutto il mondo arabo, e quindi a tutto vantaggio di una pace più duratura e più interessante. Cioè siamo stati 10 anni prigionieri dello scontro di civiltà e invece ci siamo trovati improvvisamente a vedere una battaglia e un movimento per la civiltà. Abbastanza imprevedibile, questo, almeno per noi. Soprattutto molto imprevedibile. Quindi questa è la prima cosa. La seconda mi pare di vedere che rispetto per esempio all'intervento in Iraq e per certi aspetti anche all'intervento in Kosovo, e questa, questo intervento, che peraltro non è stato ancora lanciato, almeno vi parliamo, innanzitutto ha una legittimità internazionale molto più forte e molto più diffusa. Parliamo dell'ONU, delle Nazioni Unite, della NATO, di quasi tutti o comunque dei principali paesi europei, di diversi paesi africani, non ultimo, ma credo anche importante sottolinearlo, della Lega Araba. Massimo, cioè c'è una coalizione internazionale che vede in Gheddafi un pericolo. Anche se è vero, come diceva un ascoltatore prima, cioè, lo si è osannato e diciamo appoggiato per molto tempo. Beppe da Verona, continuiamo a sentire gli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Beppe? Ciao. Sei in discoteca, Beppe, a quest'ora? No, sono al supermercato, ecco. Fatalità, mi avete beccato qua. Senti Beppe, tu sai quali sono i cibi da non comprare adesso per quello che riguarda purtroppo la catastrofe giapponese? Sì, ho una qualche idea. Tieni presente che io sono un sottufficiale della Croce Rossa Italiana, per un po' più di consapevolezza. Non era di questo però che volevo parlare. Prego. Io volevo fare un breve intervento per quanto riguarda invece la questione del radioattivo. Sì. Del nucleare, no? Ho colto nel segno senza saperlo, bene. Allora, ascolta, io sono figlio della civiltà contadina e quindi chiaramente la civiltà contadina era impostata al futuro, al guardare al futuro e a quello che si lasciava in eredità alle generazioni che venivano dopo. Ora, io so che con il discorso del nucleare alle generazioni che vengono dopo lascio le scorie radioattive, che non c'è verso di smaltire. La Francia li butta negli atolli, l'America glieli dà al Messico perché si muoiono di fame e li paga bene per prenderle su, ma alla fine ne avremo talmente tante da non sapere dove metterle, con il loro potenziale distruttivo che può durare anche migliaia di anni. Non è vero che in Italia non può succedere quello che è successo in Giappone, non ci dimentichiamo la caldara di Pozzuoli, non ci dimentichiamo il casino che abbiamo nel Mediterraneo. Non è vero che è inverosimile la possibilità di uno tsunami anche nel Mediterraneo, ce ne sono già stati, ce ne sono già stati e con onde alte anche 15 metri. Quindi non è vero tutto quello che non si vuole dire, cioè è vero quello che non si vuole dire circa i rischi che si corrono guardando al nucleare, prova ne è il fatto che chi aveva fatto baluardo della propria politica economica la questione dei... cioè le centrali, mi senti? Sì, sì, ti sento, stavo ascoltando. Le centrali nucleari come la Germania, la Francia, eccetera, stanno rivedendo le loro posizioni. Perché tu sai, Beppe, che anche in Italia, naturalmente, in questi giorni, no, si è deciso di frenare, anche se in un primo tempo invece si voleva andare avanti comunque ad ogni costo. E poi c'è stata quella intercettazione attraverso le orecchie, non attraverso i telefoni, di alcuni giornalisti in Parlamento, della ministra Prestigiacomo, che diceva, insomma, non facciamo cavolate, ha usato un altro termine, fermiamoci sul nucleare perché rischiamo di perdere le amministrative. Lo so, però io ho letto anche sul Corriere, su altri titoli prestigiosi, che sembra quasi che questo sia soltanto uno stand-by temporaneo, perché sono così fortemente convinti che come forma di energia alternativa, di energia sia la migliore, no? Che è fatica tirarli via da questa posizione. Ma poi una cosa che dico io, c'è una bella canzone che dice chi steo paese ro sol, ma abbiate pazienza, il fotovoltaico e i pannelli solari. Noi abbiamo centinaia, no? Di siti che non vanno compromessi, cioè se noi incominciamo a metterci il fotovoltaio su tutto ciò che è già coperto, ci rimane lo scoperto per continuare a coltivare, perché qualcuno poi se ne è venuto fuori anche con questa fregnaccia, no? Cioè se mettiamo i pannelli fotovoltaici il sole per l'agricoltura non arriva, ma mica li devi andare a mettere nei campi. Beh, questa mi sembra fantascienza. Beppe, cosa stai comprando adesso, se posso chiedere, mentre ci salutiamo? Aspetta, oggi è San Giuseppe. Sì, allora auguri a tutti i padri, a partire dal mio, naturalmente. Io mi chiamo Giuseppe. Sì, quindi. E mia moglie mi ha preso per i capelli, mi ha portato al supermercato perché mi vuole fare il regalo. Così, lei sta facendo la spesa e tu intanto, e ti fa la sorpresa. Allora non guardare, tu parli giustamente con me. Infatti, eccola là. Auguri Beppe, allora doppiamente. Ti sento sempre con affetto, sai. Grazie, grazie Beppe. Continua così che fa bene. 800 24 00 24, mi sembra che sia tempo di pausa, è vero Paolo? Ci fermiamo, poi torniamo in immediatamente 800 24 00 24, sempre Massimo Nava, mio opinionista estemporaneo di oggi, col suo libro Il Garibaldino, che fece il Corriere della Sera. Non ci sono più le mezze stagioni. Riprendiamo da dove avevamo lasciato Roberto Giordano, sempre con voi qui a Non ci sono più le mezze stagioni, e sempre Massimo Nava in collegamento da Parigi, editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto Il Garibaldino che fece il Corriere della Sera, pubblicato naturalmente da Rizzoli. Quindi tantissime ascoltatrici e ascoltatori che aspettano di intervenire. Massimo, parliamo un po' di opinione pubblica. Allora, da una parte adesso la questione sulla Libia, capire anche se poi si dovrebbe agire nelle prossime ore, insomma sembra una questione imminente con i raid sulla Libia, se Gheddafi non si ferma rispetto al genocidio del suo popolo, che adesso insomma abbiamo sentito prima da Radio Padania due ore di persone almeno evidentemente coerenti con quell'area politica contrarie all'intervento in Libia. Per quanto riguarda il nucleare, se il nostro, al di là della diciamo intercettazione orecchiale della ministra Prestigiacomo, delle polemiche che sono sorte dopo eccetera, del freno quindi del governo, è chiaro che se c'è stato questo tiro appunto del freno a mano da parte del governo, si è capito che comunque anche da trasmissioni come questa, perché già sabato scorso ho improntato all'ultimo momento la trasmissione solo su questa notizia, nucleare sì, nucleare no, rispetto a quello che è successo in Giappone, e devo dire che è stato quasi impossibile trovare qualcuno che in quel momento fosse favorevole tra gli ascoltatori. Evidentemente tra sondaggi, trasmissioni eccetera, il governo italiano si è reso conto che in questo momento, sarà l'ondata emotiva quello che volete, l'opinione pubblica è contraria al nucleare. In Francia? Ma in Francia c'è stata ovviamente una pressione molto forte in questo momento, perché è chiaro che le notizie dal Giappone hanno scioccato anche l'opinione pubblica francese, ma nello stesso tempo è evidente che la scelta nucleare francese è data da talmente tanto tempo ed è così collaudata che è assai improbabile una marcia indietro nel breve periodo. Senti, scusami Massimo, tra l'altro ti sento male perché forse hai messo il viva voce? Vai e vieni praticamente, un po' altalenato. Lo devo staccare. Disattiviamolo e parliamoci cuore a cuore così. Volevo dirti, nei giorni scorsi, questa settimana, sul Corriere della Sera, in prima pagina, hai fatto questo fondo, la via francese, no? A proposito del nucleare in Francia, e tu dici, è come se, soprattutto col dibattito che si è aperto in Italia, ma non solo in Italia, è come se il nucleare fosse una cosa di destra e magari l'eolico una soluzione di sinistra. Ma tu dici, tutto questo è ideologico, non sono così dicotomiche le posizioni destra-sinistra. Massimo? Che è successo, Massimo Nava? Sta riflettendo. Va bene, tentiamo allora di richiamarlo. Evidentemente c'era un problema al telefono, e andiamo invece sulle telefonate degli ascoltatori. Credo che sia accaduto Giambattista, al quale chiedo scusa se riusciamo, Luca, a riprenderlo. E allora c'è Angelo da Verona, da Venezia, pardon. Angelo. Ciao Roberta, Angelo. Buongiorno. Buongiorno a te. Ascolta Roberta, prima di tutto ti dico una cosa di cui spero sarai fiera. Già mi inorgoglisco, speriamo che sia, dimmi. È una cosa che mi rivolgo a te personalmente, che tu sei il mio sfogatoio personale, uno sfogatoio piacevole però. È la prima volta che mi sento uno sfogatoio, devo dire, ma è un'esperienza. Guarda, vuol essere un grande complimento. Grazie, Roberta. Grazie, io ti ammiro, e lo prendo come tale. Mi piacciono tanto la tua voce, i tuoi modi, eccetera, eccetera. Grazie. Tra l'altro, scusami, al posto di Elsa Poppi in Sant'Almassi, forse tu te la ricorderai perché c'eri, no? Sì, sì, ricordo bene. Sì, c'è un programma che non è molto attento in realtà ai pareri degli ascoltatori, è piuttosto autoreferenziale, gossiparo, infatti io non lo ascolto più. Beh, cioè, questa è questione di linee e di stile dei vari conduttori, Angelo. Sì, ma dimmi qual è la tua notizia, sì. Angelo. Ascolta, adesso ti dico questo, Roberta. Sì. Guardami negli occhi, guardami, ecco, io sono... Radiofonicamente faccio il possibile, sì. Sì, sì, sì, ce li ho verdi, un po' slavati, un po' giallognoli, così. A proposito del 150esimo, no? Sì. Io ti dico, ma in realtà, ora che l'abbiamo fatto, no? Ti chiedo, in che cosa siamo uniti? Cioè, a cosa è servito festeggiare? Noi... di che cosa possiamo andare fieri Potremmo mai dire quando siamo all'estero con stranieri, queste cose me le sono scritte per cui suona un po' al cantilena, no? Quando siamo con stranieri, di venire da un paese pulito, senza corruzione, senza malaffare, uno stato vicino ai suoi cittadini dove tutto funziona, potremmo mai dire che siamo uno stato modello, no? Raccontando, non so, andiamo in Uzbekistan e diciamo guarda, io vengo da uno stato modello, uno stato unito, no? Proprio in Uzbekistan. Questo sì, ma per dire, no? Una roba stato lontana. Sì. Ecco. Sai cosa mi ricorda tanto questo festeggiamento? A parte tutte le trombe e i tromboni che venivano lucidati, tutta la gente che si è preparata a discorsi con punti, eccetera, eccetera. No? Mi ricorda tanto lo scambiato di segno della pace che si dice in chiesa, chi ci va, chiaramente, dopo usciti dalla chiesa siamo pronti a prenderci a pedate, no? Angelo! Ascolta, Roberta, finisco, sì. Davvero. Se dovevamo ricordare i nostri eroi di risorgimento, no? Non era meglio starcene tutti a scuola quel giorno invece di fare un giorno con annesso ponte magari di vacanza che ne abbiamo già Le polemiche, no? Angelo, su questo sono andate avanti per tanto, però io ritengo, giustamente, come anche aveva sottolineato Benigni, no, nel suo intervento a Sanremo se non sbaglio, insomma, per sentire che è una cosa diversa dal resto, doveva essere una grande festa e bisognava astenersi da scuola e da lavoro, anche se chi fa un lavoro come il mio c'era comunque al lavoro, insomma, chi poteva, secondo me, poteva sottolinearlo così, se no portarsi, appunto, come ho detto, una bottiglia di Brut spumante al lavoro forse aveva poco senso per fare una vera grande festa dei 150 anni. Bene, ogni 150 anni si poteva anche fare. A questo proposito, Massimo, tu, Massimo Nava, dalla Francia, da Parigi, dove eri intanto? Sei stato qua in Italia, no? Sì, sono stato in Italia giusto appunto per presentare il mio libro. Ma intanto, venendo da un paese come la Francia, che si celebra tutti i giorni e che ogni giorno ricorda, se possibile, Napoleone, in ogni caso la Marsigliese, piuttosto orgogliosa di se stessa, tutto, diciamo, questo scetticismo serpeggiante in Italia e in giro così lo trovavo abbastanza sorprendente. Devo dire che contrariamente al nostro ascoltatore, ho notato, proprio perché giravo in piccoli centri, una partecipazione, un interesse, un entusiasmo notevole, e questo non significa ovviamente mettere la sordina o nascondere quelli che sono i nostri problemi, le nostre magagne, le nostre vergogne anche, ma nello stesso tempo credo sia anche giusto almeno ogni 150 anni, se non tutti i giorni come fanno i francesi, essere anche orgogliosi della propria storia, della propria identità, delle cose che ci uniscono e anche dei nostri meriti, altrimenti rischiamo di esaltarci solo quando vinciamo i mondiali di calcio e allora lì diventiamo tutti italiani col tricolore, oppure di allargare il dibattito a tutto ciò che è comunque rituale. Allora a questo punto non brindiamo più a Capodanno, non onoriamo i nostri morti, non festeggiamo i compleanni, soprattutto dopo una certa età, ma tutto questo francamente attiene a materie di riflessione diverse. La storia d'Italia è una storia complessa dove pochi momenti sono probabilmente fortemente unitari e fortemente da ricordare. Uno di questi è sicuramente il Risorgimento. Massimo, i suoi eroi e le sue pagine. Ci fermiamo, mi sembra che per fortuna, insomma, con vari libri, con vari convegni, celebrazioni, eccetera, un po' di più che in passato si sia ricordato. 800 24 0024, ci sono gli aggiornamenti se state viaggiando, e poi ci sarà la satira di spinoza.it, poi di nuovo con Massimo Nava, altri appuntamenti. Vi ricordo sempre la pagina Facebook e poi anche che potete riascoltare la trasmissione in podcast sia sul sito di Radio 24 sia appunto sulla pagina dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre Roberta Giordano con voi, ancora diverse telefonate, cerchiamo di essere un pochino più sintetici adesso che ci avviciniamo pian piano verso la fine. Sempre Massimo Nava, opinionista estemporaneo di oggi, editorialista del Corriere della Sera e autore del libro Il Garibaldino che fece il Corriere della Sera. Vediamo, c'è Mauro da Verona. Mauro. Sì, pronto? Eccoci Mauro, riesci a essere sintetico Mauro? Salve a te. Sì, solo una piccola cosa, io sono molto combattuto sul discorso del nucleare, però è una cosa che noto, che nessuno dice, che nessuno affronta. In che senso? Se noi non scegliamo il nucleare, nessuno dice però che ci saranno ditte straniere che non arriveranno in Italia, ditte italiane che se ne andranno perché l'energia costa moltissimo, avremo problemi di altra disoccupazione e avremo bollette energetiche per le famiglie molto più care, perché è vero buttarsi sulle rinnovabili, ma fra quanti anni avremo una sufficienza con i rinnovabili? Anche se Mauro, c'è chi dice che in realtà i costi dell'energia nucleare sono molto molto alti e soprattutto poi noi che ripartiamo da zero fare altre centrali nucleari costerà moltissimo. Sì, certo, però certo. Penso che il dibattito, giustamente Mauro, tu sei combattuto e infatti una posizione nettissima, a volte è difficile averla su certi temi, però sicuramente il dibattito andrà ancora avanti, è possibile che anche sabato prossimo ci troveremo, credo normalmente, a parlarne. Grazie Mauro, adesso dobbiamo correre galoppando verso il nostro Stefano Andreoli che ci farà una fotografia, diciamo, molto sintetica della settimana. È vero Stefano, l'ideatore di Spinoza.it, il blog buongiorno. Di satira più cliccato dell'universo. Prego buongiorno, Stefano, buongiorno Roberto. A te. Eccoci qua, cerchiamo di sdrammatizzare i fatti, chiaramente per quanto per il poco che ci è possibile. Il sisma in Giappone ha spostato di 10 centimetri l'asse terrestre. Certo, l'hai saputo anche tu, sì. Ma l'importante, a parte i centimetri, è come lo si usa, e questo lo sappiamo benissimo. Il problema radioattività si fa sempre più sentito. Pare che nella famosa centrale di Fukushima le barre di uranio stiano trasmettendo radio vaticana. Vuol dire che è veramente un problema. Anche il latte radioattivo, anche se io non capisco veramente, anche mia madre mi ha tirato su col latte della centrale e non ci sono stati problemi. Ah, pensavo della centrale. Forse qualche radioattività c'era, forse, secondo me. Forse ho capito male. La Prestigiacomo dichiara: le centrali italiane saranno della nuova generazione, cioè già terremotate. Si risparmia moltissimo tempo. È indicativo che dopo il disastro l'Italia voglia ancora il nucleare, mi sembra. E forse sta facendo un pensierino pure agli tsunami, forse c'è qualcosa da lucrare pure lì. In Germania Angela Merkel annuncia la chiusura delle centrali. I soliti tedeschi emotivi. Momentanea. Sì, questi tedeschi così emotivi, no? Sempre pronti a decidere sull'onda dell'emozione. Veniamo a un altro fatto importante fuori dai nostri confini, Libia. Il governo italiano esclude interventi via terra. Per me è un peccato, avremmo strisciato benissimo, secondo me, come da bravi italiani. È stato proposto a Gheddafi di lasciare il potere in cambio dell'immunità. Sì, anche del pensionamento, ho sentito. Esatto, se funziona proveremo anche qua. Secondo me potrebbe essere un buon sistema. Non possiamo non parlare dell'Unità d'Italia a 150 anni. L'ascoltatore Angelo chiaramente ha criticato questi festeggiamenti. Secondo me, insomma, non c'è nulla di male, almeno cercare di sentirci un po' italiani almeno per un giorno. Come ben sappiamo c'è qualche polemica. Sì. Consiglio regionale Lombardo ha mollato l'aula dei leghisti. Esatto, al Pirellone i leghisti disertano l'inno di Mameli suonato in apertura e sono rimasti a prendere il caffè, la nota bevanda padana, il caffè, notare anche qui la coerenza. Borghezio dichiara: il 17 marzo per noi leghisti è giorno di lutto, deve essere morto Obelix o qualcosa del genere, perché altrimenti non si spiega. Chiudiamo con un'altra notizia: secondo la Corte di Strasburgo esporre il crocifisso non viola i diritti umani. Sì, sentenza di ieri, se non sbaglio. Esporre il crocifisso non viola i diritti umani. Soddisfatti milioni di tamarri. Grazie e alla prossima. Grazie caro Stefano Andreoli. Chiudiamo subito la mannaia della censura. Arriva sempre troppo tardi, anche se io l'annuncio più volte con gli occhi. E adesso invece il prossimo appuntamento è quello con la nostra linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle, alla quale sottopongo la parola della settimana, che mi sembra senza dubbio, Valeria, sia a questo punto nucleare, no? Si è tanto dibattuto, si parla di centrale nucleare, di incubo nucleare, del dibattito sul nucleare. Ebbene, Valeria, Bene, allora l'aggettivo nucleare è nella lingua italiana, intendo, relativamente recente e con il significato al quale alludiamo, quindi quello che si riferisce al nucleo dell'atomo, risale addirittura agli anni 50, quindi in tutte quelle espressioni come energia nucleare, bomba nucleare, armi nucleari, o per venire a quello di cui ci occupiamo oggi e di cui purtroppo ci occupiamo in questo periodo, centrale nucleare. Ecco, questa espressione nella lingua italiana ha fatto la sua apparizione nel 1958. 1918. Ora, da osservare due cose. Quando pronunciamo appunto l'aggettivo nucleare, non ci viene in mente in genere che deriva dal latino nucleum, che significa nocciolo. E anche un'altra cosa, noi usiamo sempre centrale nucleare, diciamo, no? Oppure diciamo disastro nucleare. Quindi ne mettiamo accanto una parola, questa parola che è disastro. Ecco, anche a disastro forse sarà bene ricordare che la parola disastro, che indica ovviamente una disgrazia di grandi, di immense proporzioni, è una parola antichissima italiana che risale al 400 e che è composta da dis e astro, col significato di cattiva stella. Il disastro nucleare è purtroppo molto attuale, le parole che usiamo per indicarlo sono antichissime. Grazie Calavarina della Valle. Grazie. Quanta conoscenza ci arriva da Valeria. E adesso siamo invece tra pochissimo per la conclusione con Massimo Nava. Massimo, che cosa, di cosa preferisci, su cosa preferisci chiudere con una tua chiosa sulla Libia, sul nucleare, sull'Unità d'Italia? Vedevo per esempio che Libero oggi, che comunque è un giornale vicino al governo, dice: ci mancava solo la guerra al beduino con tutti i guai che abbiamo. Quindi sembra piuttosto contrario all'intervento, e anche il giornale costretti alla guerra. Libero dice addirittura: l'Italia si caccia in un conflitto dove non si capisce chi siano i buoni e i cattivi. Dice Libero, che pensi? Come sempre, in questo minuto concludo proprio ricordando proprio questo, il fatto che come sempre non si capisce quando si è di fronte a degli eventi così importanti, direi di fronte proprio alla coscienza dell'uomo, come l'estremo ricorso alla guerra, ci si divide, almeno moralmente, eticamente. È curioso comunque che in Italia ci si divida sempre più per questioni così di parrocchio o di bottega che non per convinzione fino in fondo. Basta ricordare che una buona parte della destra, e come Lega compresa, erano abbastanza favorevoli all'intervento in Iraq, così come la Lega stessa era addirittura contraria all'intervento contro Milosevic. Mentre adesso è contraria all'intervento in Libia. Massimo, come senti? C'è la sigla in sottofondo. Oggi siamo stati un po' pochino più ristretti, insomma, per questa emergenza, per le notizie che arrivano. Ringrazio molto Massimo Nava, il garibaldino che fece il Corriere della Sera, è il suo libro. Grazie Massimo, chiedo scusa a Tino e agli altri ascoltatori che erano in onda. Ci risentiamo sabato prossimo, naturalmente, sempre dalle 14 alle 15. Da Roberta Giordano, buona Italia a tutti.